bene così. Tu mi vuoi ingannare, lette, musica non è. Mentre piano piano, senza fare confusione, chiedi ispirazione. Senza la tastiera sotto mano scivolare, il bemolle devo ritrovare. Sto, sto vado l'ottico, ritmo musica, va senza esitare.